Automobilismo. E. Ascolta il testo. Nel 1895 si svolge la prima corsa automobilistica italiana, Torino-Asti-Torino, con un percorso di 115 km. Il Gran Premio d'Italia, che si corre sul celebre circuito di Monza dal 1922, è una delle gare più ricche di tradizione del mondo. Nel 1946 nasce la Formula A, che poi, a partire dal 1950, diventa Formula 1. Nello stesso anno comincia il campionato mondiale, che è ancora oggi il più prestigioso, riservato ai conduttori di Formula 1. Un altro campionato mondiale ricco di tradizioni è quello riservato alle vetture sportive, istituito nel 1953. In queste gare partecipano le grandi case automobilistiche come Alfa Romeo, Lancia, Maserati e Ferrari. La Ferrari è l'unica squadra che partecipa a tutte le edizioni del campionato del mondo di Formula 1 e il suo record è invidiabile perché vince diversi titoli di campione del mondo piloti e campione del mondo costruttori. Nomi come quelli di Enzo Ferrari e marchi come Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia e appunto Ferrari sono una prova dell'importanza che l'Italia riserva all'automobilismo sportivo. L'Italia realizza infatti macchine tecnicamente competitive e stilisticamente all'avanguardia. Altri nomi celebri sono Nino Farina, Tazio Nuvolari, Alberto Ascari e Michele Alboreto, piloti italiani considerati fra i migliori del mondo nella storia di questo sport.